24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno, eccoci, 7:21 minuti, siamo qui con Carmelo Lauricella in regia che sventola virtualmente una bandiera, voglio immaginare il tricolore, insomma c'è ancora l'entusiasmo per la partita, per la vittoria dell'Italia sulla Germania. Eccoci qua, allora a chiudere la settimana di 24 mattino, io vi preannuncio che parleremo un po' di politica, avremo anche il sindaco di Cagliari oggi alle 8:20 con noi, lì vogliono fare il registro delle coppie di fatto. E poi parleremo, che sta succedendo in Senato, tagliano i senatori, non tagliano i senatori, beghe politiche, non si capisce quasi niente, cercheremo di capire qualcosa, vogliono cancellare i senatori eletti all'estero nella riforma, i senatori a vita li vogliono togliere, è giusto? Ne parleremo alle 8:30, ora andiamo a scoprire tanto il tanto azzurro che c'è sui giornali in edicola, ma non solo quello ovviamente. Questo venerdì 29 giugno, allora, le aperture dei quotidiani sono due, chiaramente il vertice europeo con le cose più serie e il calcio con la vittoria dell'Italia in semifinale contro la Germania. Allora, il Sole 24 Ore, veto di Italia e Spagna sul vertice UE, questo è il titolo di apertura. Il Corriere della Sera, linea dura di Monti sul calma spread. Repubblica, scudo antispread, l'out out di Monti. La Stampa, vertice europeo, veto di Monti, scudo sui bot o non firmo, una notte di trattative. E poi appunto il calcio, vabbè, questa volta metto anche la Gazzetta dello Sport, allora, siamo noi con tre punti esclamativi e titolo in azzurro, e c'è tantissimo azzurro con le foto, la foto di Balotelli, super Balotelli, tutta l'Italia in festa. Poi che dire, ci sono i titoli sobri. Immaginatevi il giornale a tutta pagina, ciao ciao culona, indovinate a chi si riferisce. Libero, vaffan Merkel, questo è il titolo di apertura di Libero. Vabbè, il Fatto Quotidiano, Italia 2, Germania 1, Monti Merkel 0-0. Il Messaggero, magica Italia, ma anche scudo antispread, Monti non cede, c'è una sorta di doppia apertura. L'Unità, ora la sfida tra Monti e Merkel. Mentre oggi campeggiano i vaffa, il Manifesto mette Sergio Marchionne, vaffancina, questo è il titolo di apertura del Manifesto. Quindi due quotidiani e due vaffa a persone diverse o a cose diverse sui quotidiani nelle aperture. Intanto io voglio iniziare da che cosa? Spesso le critiche arrivano, ma insomma dacci buone notizie, leggi anche le buone notizie dei giornali, io leggo le notizie che i giornali pubblicano, poi se sono soprattutto cattive notizie mi spiace per voi, ma non posso inventarmele, però voglio segnalare allora questa volta l'iniziativa del Corriere della Sera, che da oggi, tra l'altro lo fa con l'hashtag proprio buone notizie, il Corriere della Sera fa un'iniziativa, da oggi l'Italia delle buone notizie verrà raccontata dal Corriere della Sera. E Gian Giacomo Schiavi, che è uno dei vice direttori del Corriere, inizia nel raccontare la storia del benefattore invisibile. Aiuta e scompare. È la storia di un uomo a Milano che aiuta le persone bisognose. L'angelo invisibile di Milano che aiuta chi è rimasto indietro. La storia la trovate raccontata a pagina 25. Salda i debiti, paga gli affitti e dice il mio nome non conta. Ha aiutato per esempio Gaspare Tumminello, che dopo una vita da commerciante ha perso tutto, è finito a vivere in un'auto, dormiva lì con la barba sfatta, i denti persi, una storia da disperato involontario, fino a 46 anni gestiva un bar, poi i debiti, i prestiti, la malattia, ha perso tutto a 54 anni senza sussidio, anche con un tumore, si fatica a mangiare, non si riesce a pagare l'affitto e dunque è arrivato a pagare questo signore, a dire basta, questa persona non può vivere in auto, ha un letto pagato da me. E poi Noemi, pensionata, non aveva i soldi per comprare un frigorifero, sono a un passo dal chiedere l'elemosina, ha detto. L'uomo della provvidenza si è presentato a casa sua dopo aver letto la storia sul Corriere, andiamo in banca e mettiamo in salvo il tuo conto. E poi il piccolo Mohammed, tra qualche anno ringrazierà questo anonimo signore, che infatti Mohammed per sopravvivere a una rara malattia genetica che aveva distrutto le sue difese immunitarie, è stato operato e curato poi dal medico del Policlinico di Pavia e aiutato da questa persona. Ancora Anna e Virginia, madre e figlia, impoverite dalle malattie e dall'impossibilità di mantenere un posto di lavoro, si è presentato lui stupito dicendo come mai nessuno aiuta queste due donne senza stipendio, senza pensione. e così ha aiutato anche Aldo, pensionato che accudisce i bambini di una coppia senza casa, abita il quartiere Calvairate, corre tutto il giorno in auto per portare i bimbi a scuola nel centro di Milano. Per Aldo il problema era l'Ecopass, la sua vecchia auto doveva pagare il pedaggio. Aveva pensione di 450 euro al mese, allora ha detto te lo pago io l'Ecopass a Milano. Insomma, perché tutto questo? Lui lo spiega così, l'ho detto ai miei figli, chi ha deve aiutare, chi non ha. Il valore dei nostri gesti è direttamente proporzionale a quello di cui ci priviamo per aiutare gli altri. Credo che abbia più peso il gesto di un pensionato che rinuncia a 20 euro che non quelli come me, che non devono rinunciare a nulla, nemmeno al superfluo. Ho lavorato nelle grandi banche, so che ci sono centinaia di manager milionari che potrebbero fare quello che faccio io. Insomma, questa è la storia di Gian Giacomo, che racconta Gian Giacomo Schiavi, sull'angelo invisibile di Milano che aiuta chi è rimasto indietro. Lo trovate sul Corriere della Sera. E poi un'altra storia, invece, raccontata da Giuliano Foschini su Repubblica, la trovate in prima pagina. Bashir, l'ambulante che fa la ricevuta, ma gli italiani mi chiedono lo sconto. Questa sarà un'estate nella quale le vedo già, le prevedo già le polemiche sugli scontrini, no? Già si preannuncia, sarà un'estate di scontrini e controlli sulle spiagge. Eccolo qui allora. Gli scontrini in spiaggia dell'ambulante Bashir. La retorica, scrive Foschini, imporrebbe di raccontare la storia così. A Otranto ci sono i venditori ambulanti extracomunitari di braccialetti che rilasciano regolare fattura fiscale a ogni vendita, anche scontata. Lo stesso non fanno italianissimi gestori di chioschi. È la storia di Mohammed Bashir, nato a Lahore in Pakistan nel 1959, residente d'Italia da una decina d'anni, aveva una specie di call center, poi fallito, la crisi lo ha colpito, si è riciclato come venditore ambulante e alla fine di ogni contrattazione, oltre a un sorriso, tira fuori dalla sua borsa un blocchetto di ricevute fiscali. Sì, ricevute fiscali con partita IVA, codice fiscale, ragione sociale, la stessa del call center genovese. Mi sembra normale, dice lui, vivo io da anni in un paese, l'Italia, che mi ospita come fossi suo figlio e il minimo che possa fare è rispettare le regole. E poi questa storia, chiude Foschini, finisce così. Mi avvicino a un chiosco, prendo un caffè, costa un euro, l'ombrellone lettini 10 euro, i panini 5, la signora Salentina Doxi, scusa, oggi la cassa è rotta, lo scontrino proprio non si riesce a fare. Questa appunto è l'altra storia. Insomma, Bashir l'ambulante che fa la ricevuta lo trovate su Repubblica. Allora, avete sentito queste due, se volete, belle storie, soprattutto la prima, quello dell'angelo di Milano. E allora beccatevi questa, sempre dal Corriere della Sera. Tenete a mente questa cifra prima della pubblicità, 40%, vi lascio con questa cifra, 40%, che cos'è? Lo ha detto la Corte dei Conti, è il peso medio della corruzione sui lavori pubblici in Italia, il che vuol dire che un'opera che costa, dovrebbe costare 50 milioni, in realtà ne paghiamo 70 di milioni. Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, a pagina 11, la tassa corruzione, 40% in più sui lavori pubblici. Questo ha certificato la Corte dei Conti. Il 17% degli italiani dice di aver ricevuto un'offerta o una richiesta di mazzette, ma la legge per contrastarle arranca ed eccola lì allora, il 40%. Un'opera a 50 milioni costa in realtà 70. È la mazzetta bellezza. Tra l'altro vi voglio segnalare oggi sul Sole 24 Ore, proprio su questa iniziativa Salviamo l'Euro, inizia un'iniziativa con il primo libro, Fate Presto, che era, anche se ricordate, il titolo del Sole 24 Ore di qualche mese fa, il libro proprio del direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, ed è, inaugura così l'iniziativa L'estate rovente con il tuo amico Sole. Fate Presto, il libro di Roberto Napoletano, lo trovate allegato con il quotidiano. E a proposito di Consiglio europeo, insomma, c'è un Mario Monti che combatte, combatte, e lo ha detto, lo aveva detto, noi non, se non passa la linea del salva stati, grazie al tema dello spread con l'utilizzo appunto del salva stati, la possibilità di acquistare titoli di Stato dei paesi che comunque rispettano tutte le regole imposte dai trattati, non firmiamo altre cose. Ed eccolo qui ancora Mario Monti pronto a vendere cara la pelle, niente intesa senza antispread. il titolo a pagina 2 di Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore, ma anche a pagina 3 il racconto di Beda Romano. Con una mossa politicamente dirompente, l'Italia ha deciso a sorpresa di mettere il veto alle conclusioni del vertice europeo che si sta svolgendo a Bruxelles in questi giorni. Il governo Monti non darà la sua approvazione al comunicato finale atteso per oggi, che include un pacchetto di misure per la crescita, se non vi sarà un'intesa tra i paesi della zona euro sui modi per arginare le tensioni sui mercati e raffreddare l'andamento dei rendimenti obbligazionari. Una decisione emersa mentre i capi di Stato e Governo erano riuniti già da 7 ore nel difficile Consiglio europeo, e questa decisione dell'Italia ha anche l'appoggio della Spagna, spiegava ieri sera un diplomatico. Ovviamente nella notte sono continuate le trattative, oggi ancora le trattative, è teso il comunicato finale, ma è un Mario Monti che dice assolutamente no. E infatti nel retroscena di Carmelo Lopapa, reso conto su Repubblica, lo trovate a pagina 6, il negoziato più lungo del professore sarà una battaglia, io non cederò mai. E ovviamente si sprecano sui giornali no, le metafore anche oggi, dopo la vittoria dell'Italia ieri, dai forza, fai come gli azzurri, tieni duro, vendi cara la pelle, non cedere con Angela Merkel. In una delle poche pause della prima giornata del Consiglio europeo, questa la frase intercettata a Mario Monti: sarà una battaglia, ma io non intendo cedere di un millimetro. Il cuore dello scontro sarà ovviamente oggi, quando i leader dell'Unione entreranno nel vivo appunto del tema pacchetto anti-spread. E c'è un Mario Monti che conserva una dose di ottimismo. Meno ottimista invece è Romano Prodi, che rilascia un'intervista a Repubblica, pagina 9, ad Andrea Bonanni. Allora, professore, ce la faranno i leader europei a salvare la moneta unica? Romano Prodi, da questo vertice non mi aspetto miracoli. Sarebbe già un buon risultato se finisse la disputa dottrinaria che ha dominato il dibattito negli ultimi tempi e si cominciasse a discutere in modo empirico su cosa fare. Non sono pessimista, ma non è ancora pienamente maturata nei circoli economici e politici che contano la consapevolezza che il tracollo dell'euro sarebbe un disastro per tutti. Solo da poco hanno cominciato a comparire studi come quello fatto da Roland Berger in Germania e dalla Confindustria in Italia, o appelli come quello dell'industria chimica europea del Financial Times, pubblicato dal Financial Times. Insomma, è questa, secondo Romano Prodi, la sfida: far capire quanto sarebbe disastroso uscire dall'euro. Fuori di metafora, cosa vuol dire, dice Prodi? Beh, oggi nel mondo ci sono solo 2 governi veramente sovrani, gli Stati Uniti e la Cina. Tutti gli altri non sono liberi di attuare le politiche che vorrebbero per paura di spread e di mercati. Non capire che per i paesi europei l'unico modo di acquistare la propria sovranità è quella di condividerla con gli altri denota una totale mancanza di senso storico. Così Romano Prodi, ex presidente della Commissione e presidente del Consiglio, intervistato da Repubblica. Ovviamente c'è anche un po' il colore è questo, ma manco la partita ieri gli hanno fatto vedere a questi rappresentanti dei paesi. Già immaginatevi questi vertici lunghi, a volte tesi, a volte in questo caso magari sono un po' tesi e quindi un po' nervosi, per cui c'è anche un po' di combattività da mettere, a volte sono di una noia mortale. Io me li immagino questi leader europei che dopo un po' vengono a sapere che c'è, ad esempio, la semifinale degli europei. È vero, Mario Monti non è un grandissimo tifoso di calcio, lo ha dimostrato. Angela Merkel invece sì, l'avete vista con la Grecia come esultava lì allo stadio. Manco la partita. Farron poi, il presidente del Consiglio europeo, ha detto la partita di calcio siamo seri, non la faremo vedere. Ma anche un po' tristi oltre che seri, perché per 1 ora e mezza si poteva vedere la partita e decidere comunque i destini ben più importanti dell'euro, dell'Europa, facendo vedere la partita. E invece niente, tutti chiusi lì nel bunker, la partita fuori. Pare che secondo Repubblica ogni tanto anche la Merkel correva a vedere almeno il replay dei gol, soprattutto i gol dell'Italia, quando sentiva qualcuno raccontargli guarda c'è stato un gol. Ma niente, siamo seri, niente partita di calcio, ieri ha detto Farron poi. Ma Monti ha annunciato: domenica andrò alla finale a Kiev a vedere la partita Italia-Spagna, finale degli europei. Beh, insomma, su questo vertice europeo è piombata anche l'analisi molto dura di Confindustria. Il presidente di Confindustria, Squinzi, ha detto siamo sull'abisso e ha parlato anche di piena recessione, non ne usciremo tanto rapidamente, di uno scenario di guerra. E questo ovviamente dà spunto a vari titoli, anche il manifesto, per esempio, Confindustria sente la guerra, gli effetti della crisi devastanti tanto quanto un conflitto armato, spiega Giorgio Squinzi. Questo è il titolo di pagina 4 del manifesto. Tra l'altro Squinzi ha lanciato una proposta concreta, a dire usiamo i risparmi della spending review per ridurre le tasse. Ecco il tema della spending review, la revisione della spesa. Lunedì pare che ci sia questo, c'è un importante consiglio dei ministri, dopo il vertice europeo c'è anche un consiglio in cui Bondi, il super commissario Mandrake Bondi, dovrà annunciare che cosa sono i previsti tagli. Intanto da giorni si vocifera, ed è sempre più concreta l'ipotesi, che si vada a colpire anche un po' gli statali. E questo è un tema che mette già in fibrillazione tutti i sindacati dei milioni di italiani che lavorano, sono dipendenti dalla pubblica amministrazione. Oggi il Sole 24 Ore anticipa ancora qualcosa. Statali, ipotesi di deroga per le pensioni. Marco Rogari racconta a pagina 8, c'è una mini deroga alla riforma Fornero vincolata a penalizzazione dei trattamenti pensionistici per favorire l'uscita degli statali, a cominciare dai dirigenti vicino alla soglia dei 60 anni di età. È questa una delle ultime opzioni allo studio dei tecnici del governo per arricchire il pacchetto del pubblico impiego che sarà inserito nel decreto sui tagli alla spesa. Poi circolano anche altre voci di accompagnamento, una sorta di piano B sulla falsariga di quello proposto dall'ex premier Giuliano Amato, finalizzato a dare segnali concreti al segnale ai mercati sulla capacità del nostro paese di abbattere il debito pubblico. Ovviamente la guardia è alta dei sindacati, un piano che potrebbe essere agganciato alla spending review, che già prevede i buoni pasto, l'abbiamo già detto, dovrebbero essere allineati a 7 euro per tutti i lavoratori statali, le consulenze saranno drasticamente ridotte, così come le auto blu, sarà avviata una stretta del personale dirigenziale comandato, saranno ridotte le piante organiche. Ah, la stretta sul personale dirigenziale comandato, quindi anche Diego Cammarata che ha rinunciato all'incarico, che era un comando, no? Era un comando endoprocedimentale, ieri ci ha raccontato il questore del Senato Cicolani, no? Che aveva chiamato l'ex sindaco di Palermo Cammarata. Non era un lavoro, era un comando. Ci sarà una stretta anche su questi comandi, soprattutto immagino quelli endoprocedimentali, verranno tagliati con l'accetta, spero. Tra l'altro su questo tema, a pagina 10 del Corriere della Sera, Mario Sensini racconta una storia che riguarda i tagli previsti, perché ci si dovrà uniformare ai costi standard. Che vuol dire? Si stabilisce che per un certo tipo di servizio c'è un costo standard e tutti dovranno rispettare quello, un costo medio. Volete sapere in concreto cosa significa? Leggete l'articolo dal titolo «Le spese folli dei comuni per i vigili urbani». Da oggi niente più alibi, scrive Sensini. Con i primi costi standard del federalismo fiscale approvati ieri, quelli sulla polizia locale e servizi per l'impiego, si alza il sipario sugli sprechi e le virtù di comuni e province. Il comune capoluogo che spende di più per i vigili urbani, lo sapete qual è? È Cosenza, che paga il 150% in più del costo standard che è stato stabilito. Invece a Roma si è in perfetto equilibrio. A Milano il costo è addirittura più alto dei costi attuali, quindi a Milano si risparmia rispetto ai costi standard. Brutte notizie per i cosentini, dunque, e buone per i milanesi. Dall'anno prossimo le risorse per far funzionare i vigili urbani saranno tutte equiparate a questo costo standard. Non un euro in più, chi sfora dovrà rialienarsi entro 3 anni e provvedere a sue spese, oppure tagliare e rientrare in questo costo standard. Oppure i servizi dell'impiego, dal collocamento alla formazione. A detenere il record negativo è la provincia di Verbano-Cuseo-Ossola. Gli amministratori della neonata provincia sono evidentemente stati di manica larga, ma gli sprechi proprio sui vigili urbani, guardate, qui ci sono dei comuni assurdi. Per esempio, il comune di Grezzago, in provincia di Milano, ha un costo pari a 30 volte oltre il costo standard. E che succede a Grezzago? Infatti il sindaco, il comandante dei vigili, cade dalle nuvole. Ci deve essere uno sbaglio. Siamo due agenti per 2.800 abitanti. Stessa reazione del sindaco di Borgo Vercelli. Secondo nella graduatoria, una spesa pari a 26 volte sopra il costo standard. Ma come? Avevamo due vigili, uno l'abbiamo messo in mobilità, e senz'altro un errore, sbotta il comandante dei vigili urbani. Sarà un errore, ma i tecnici della Commissione sul federalismo lo escludono. Così come a Comabbio, Chiusa Vecchia, Villa Biscossi, Campione d'Italia, Vinzaglio, Costa dei Nobili, Zerbo, Belmonte Castello, la spesa per la polizia locale supera quella ottimale tra le 10 e le 20 volte. Come mai, cari comuni? Una spiegazione tecnica potrebbe essere questa. Sono comuni nei quali ci sono alte spese per gli autovelox che mettono, con relativo costo di macchine, personale, eccetera. Ma questi, certo, fanno recuperare multe questi autovelox, ma queste multe, spiega Mario Sensini, non sono contate e non valgono come fattore per controbilanciare un costo che comunque appare eccessivo. Insomma, le spese folli dei vigili urbani. Oggi troverete un inserto a pagamento su alcuni giornali dell'Unione delle Province d'Italia che fa delle proposte concrete. Caro Presidente Monti, iniziano così un'intera pagina di pubblicità. L'Unione delle Province d'Italia sta già facendo la sua parte. Abbiamo proposto un'autoriforma che garantirà allo Stato 5 miliardi di risparmi attraverso la riduzione del numero delle province, l'istituzione di città metropolitane, la riorganizzazione di uffici territoriali dello Stato. E questo è il nostro contributo alla spending review. E poi un'altra proposta: il Ministero del Tesoro ha compilato la lista delle società, consorzi, enti strumentali di regione, province e comuni. Sono, Presidente, 3.127 pagine e pagine di sigle improbabili, strutture create dal nulla per spartire poltrone e gestire potere, organismi che costano al Paese 7 miliardi di euro, di cui 2,5 impiegati per i soli consigli di amministrazione. Completi l'opera tagliando con nettezza questi veri rami secchi e improduttivi dell'amministrazione pubblica. Questo è l'appello dell'Unione delle Province Italiane, perché forse aumenta la strizza, come si suol dire, perché lunedì dovrebbe entrare in vigore anche questa riforma. Certo, sulle province lo sappiamo, non voglio neanche tediarvi più di tanto, è da anni che lo sentiamo, questa nuova riforma che dovrebbe tagliarne ancora diverse, ancora nel senso non che ne abbiano già tagliate, ma che ho sbagliato l'uso della sintassi, in cui ancora si tenterà di tagliarle, ecco, questa era la frase giusta da dire. Mentre la scure del governo, secondo la stampa, arriverà sui prefetti, si abbatte sui prefetti, questo è il titolo di pagina 6, previsto un taglio del 20%, racconta Francesco Grignetti, molte sedi di prefettura saranno accorpate. Insomma, diciamo che si parla, si vocifera, lunedì si vedrà qualcosa. La politica, le cose più interessanti sono la Lega alla vigilia del congresso con Maroni che dice voglio pieni poteri, insomma non voglio quella che viene definita da Libero la badante. Maroni scarica Umberto, cioè vuole essere il plenipotenziario della Lega. Forse ce la fanno lunedì nel Consiglio dei Ministri a fare il decreto per salvare i 90 milioni che dovrebbero andare ai partiti, metà della tranche del finanziamento pubblico di quest'anno, e che dovrebbero essere dirottati, così avevano promesso, ai terremotati. Ci vuole un decreto, scadono i tempi. Forse lunedì l'ultima possibilità. E si racconta sui giornali che potrebbe arrivare proprio il decreto lunedì. E poi c'è cronaca. La cronaca più interessante riguarda ancora le vicende IOR Vaticano. IOR, un conto segreto intestato a un laico, è per il riciclaggio. Questo è il titolo dell'articolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, pagina 19, ma anche il Messaggero ha un titolo su questo con Sara Menafra. IOR, nuovo conto sospetto nel mirino dei magistrati. Secondo l'inchiesta dei magistrati, dopo la defenestrazione di Gotti Tedeschi, il presidente dello IOR, sarebbe stato trovato un conto appartenente a chi? Cifrato, ma certo a un laico, e la prima indicazione l'ha data Ettore Gotti Tedeschi nel suo interrogatorio ai magistrati romani, poi ha rifiutato però di svelare l'identità del titolare del conto, ma tanto è bastato per avviare una nuova indagine, perché quel deposito aperto presso lo IOR appartiene a un laico e potrebbe essere il veicolo di operazioni di riciclaggio di soldi. Quando chiesi notizie sui conti laici iniziò la guerra, aveva scritto Gotti Tedeschi in una sorta di testamento affidato alla segretaria destinato al Papa e a due amici se dovesse succedermi qualcosa. Ed ecco allora racconta le tensioni con il direttore dell'istituto Cipriani sulla questione di chi fosse l'intestatario di questo conto. Quando ho iniziato a chiedere, è iniziata questa guerra, mi ero incuriosito perché avevo letto che una personalità coinvolta in un'inchiesta giudiziaria era titolare di un conto presso lo IOR, avrebbe ancora detto Gotti Tedeschi ai magistrati. Chiesi subito spiegazione a Cipriani, ma lui si rifiutò di parlarmi di quella vicenda e di fornirmi dettagli, mi confermò solo il nominativo ma non volle dirmi di più. E ovviamente il nominativo però credo che Gotti Tedeschi non l'abbia detto ai magistrati, così almeno raccontano i giornali. È arrivata la condanna di primo grado, invece 9 anni, ve lo ricordate, per il Madoff dei Parioli, quello che ha truffato, secondo l'accusa, molte persone, anche VIP, che a lui hanno affidato i soldi. Voglio chiudere con una bella intervista che Malcolm Pagani fa a Emilio Fede, pagina 18 del Fatto Quotidiano. 81 anni, mi trovo in splendida forma, un Emilio Fede però un po' intristito, han provato a rovinarmi, mi han dato del puttaniere, la storia della valigetta in Svizzera, cosa vogliono ancora, che muoia? Silvio ha capito, è lui ancora il leader, non vedo più il TG4, non ce la faccio, starei male, la mia creatura, e poi dice, scriverò un libro. Qualcosa ho fatto nel giornalismo, no? Sono quasi l'ultimo testimone, Biagi e Bocca non ci sono più. E ancora? Ma come vive? Bene. La gente, vado in giro, la gente mi vuole bene, cammino per strada, non mi insulta nessuno. Eccolo qua, nessuno mi insulta per strada, ma che malinconia. Emilio Fede e gli scandali, dice, mi hanno fatto passare per un puttaniere. Ma io non sono assolutamente così. Il bunga bunga alla mia età, risponde Emilio Fede. Frescacce, legga le deposizioni. Fede stava in un angolo e non se lo cagava nessuno. Tutto abbastanza malinconico. È un po' sì, verrebbe da dire. Allora, io voglio salutare il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. Buongiorno sindaco, eccoci Buongiorno qua. Buongiorno a voi. Il più giovane sindaco di capoluogo regionale, 36 anni, vendoliano di Sel. Allora sindaco, domani c'è il Gay Pride in Sardegna, a Cagliari, e il comune di Cagliari ha deciso con un voto del Consiglio Comunale di istituire il registro delle unioni di fatto. Perché? Passa davvero da questa cosa, anche secondo lei, un principio di civiltà? Sì. Sicuramente. È un messaggio persino per il governo, per le forze politiche a livello nazionale. È un messaggio di civiltà, di estensione dei diritti e poi anche rafforza la posizione di chi potrà un domani proporre nel programma elettorale le unioni di fatto e il riconoscimento delle convivenze con legge a livello nazionale nel Parlamento. Perché per lei questa dovrebbe essere la strada, cioè sì. Lei è favorevole all'unione di fatti, anche l'unione tra omosessuali, anche i matrimoni omosessuali? Sì. Cioè l'estensione dei diritti non ha mai mortificato coloro che i diritti già li avevano, anzi ha consentito alle società di crescere, di migliorare. È chiaro che c'è una differenza tra le unioni di fatto, le convivenze e la famiglia così come oggi la conosciamo, che ha un ruolo prevalente nella società, devo dire la verità, in tutte le società del mondo. Ciò non vuol dire che la politica non debba riconoscere, vedere ciò che si muove nella società e normare, aiutare in termini di diritti, di norme, di leggi, proprio per consentire che ciò che già è nella società sia normato e abbia dei diritti anche come... Sai che però molti criticano da questo punto di vista a dire, beh, ma perché bisogna tutelare, dare gli stessi diritti, che ne so, a due persone che convivono o a due persone omosessuali, ma anche a due persone, che ne so, a due anziani che convivono, quando invece la Costituzione si basa sulla famiglia e tutela la famiglia basata sul matrimonio, intendendo come matrimonio per estensione quello tra uomo e donna. Perché è una questione di giustizia, è una questione di civiltà, ecco perché. E non credo che sia incostituzionale, perché non può essere questa l'argomentazione, cioè non può essere tutelarsi dietro le norme della Costituzione, che invece rappresentano diritti e hanno consentito che diritti fossero estesi a tanti. Lei ha già detto che deve essere un messaggio anche per il futuro governo. Ha sentito che su questo pare che nella sinistra, lei è diciamo di SEL, ma anche nel centro-sinistra del Partito Democratico, per esempio Bersani ha detto di sì, creando già un dibattito all'interno del partito. Dovrebbe essere, è davvero un elemento così dirimente anche da affrontare in futuro? Ma dicevo che aiuterà anche il governo futuro a livello nazionale. Perché è chiaro che nel momento in cui l'ha adottato Napoli di il registro delle unioni civili, l'abbiamo fatto noi a Cagliari, nel momento in cui tante città, i capoluoghi di regione, le città maggiori in Italia, piccole, grandi cittadine del nostro paese dovessero dotarsi di uno strumento del genere, sarà molto più difficile sostenere tesi contrarie, perché ci sarà dal basso una richiesta di normare ciò che già con i poteri limitati che abbiamo noi negli enti locali, ciò che già è stato fatto. Ma le richiedo, sindaco, lei anche per il matrimonio appunto tra omosessuali, anche per l'adozione per esempio di figli per coppie omosessuali, sarebbe per l'apertura a questo fronte? Su quello capisco che ci sia una difficoltà in più. Io dico che sulle prime, come dire, bisogna fare un passo alla volta. Mi accontenterei di avere una norma nazionale, una legge nazionale in questa direzione, in questa direzione. Delle unioni civili, delle convivenze, in questo riconoscimento. Senta, mi faccio fare due domande a livello di politica nazionale, perché lei è uno dei sindaci più giovani che si è anche imposto, magari rompendo un po' quelle che potevano essere le previsioni. Lei aveva già detto, quando era caduto Berlusconi, che preferiva andare al voto, lo ribadisce anche oggi, cioè bisognerebbe far cadere Mario Monti oppure bisognerebbe sostenerlo in questo momento il governo? Beh, innanzitutto noi non siamo rappresentati in Parlamento perché siamo fuori dal Parlamento, quindi lo dicevo in una fase iniziale. Io sono convinto che non esistano governi tecnici, perché i governi come questo sono sostenuti dalla politica, quindi non esistono governi tecnici. Si tratta di capire se da un lato il governo ha il compito di risanare i conti pubblici, è solo quello, oppure se non si stia spingendo più in là, è già da qualche mese si va in questa direzione, nell'eliminare diritti fondamentali che hanno consentito che l'Italia e altri paesi d'Europa fossero i luoghi dove serenità... Ma a cosa si riferisce? Cioè a cosa pensa? Mi riferisco alla riforma sul lavoro, alla riforma sulle pensioni. Noi stiamo eliminando i principi che hanno consentito che l'Italia fosse uno dei paesi dove comunque anche nei momenti di crisi e di difficoltà si potesse stare meglio nel mondo. Che effetto le fa a sentire il ministro del lavoro che ha detto, secondo me è stato interpretato un po' in maniera strumentale, ha detto il posto di lavoro non è un diritto ma qualcosa che va conquistato, non è che ha toccato il diritto sancito dalla Costituzione del lavoro, ma che effetto le fa a lei aver sentito questo? Che forse il ministro del lavoro si dovrebbe preoccupare un po' di più nel creare lavoro, occasioni di lavoro e quindi per il lavoro che verrà, più che cercare sistematicamente di studiare norme, cavilli e leggi per demolire il lavoro che c'è. Cioè secondo lei la Fornero vuole demolire il lavoro che c'è? No, beh insomma però non mi pare che sia questo il problema. Cioè, l'idea del governo è quella che di risanare i conti pubblici eliminando posti di lavoro, guardi, lo proposero a Olivetti, lo proposero questo, i vertici dell'Olivetti. Licenziò i vertici, non i lavoratori. Dopodiché... Ma perché per lei questa è la linea del governo, cioè eliminare posti di lavoro? Beh, insomma, la Fornero ogni tanto ci ritorna, diciamo che ci ricasca. L'ha fatto con l'articolo 18, di nuovo più di recente, e poi c'è stata l'eliminazione delle pensioni. Ci sono alcuni ministri che sono... ovviamente, perché il governo è composito ed è sostenuto a forze diverse, espressione di una destra economica. Cioè, questo è, secondo lei, un governo di destra? Lo definirebbe di destra come governo? No, non alcuni ministri? Sì, ho detto che è un governo composito. Beh, il ministro Barca, ad esempio, viene dalla famiglia comunista, quindi non è sicuramente... Cioè, di destra chi vede? Non... Fornero, mi pare no, di capire. No, non in generale, sono le linee politiche, non il dettaglio di ognuno, ogni singolo esponente del governo. È un governo conservatore, questo sì. Senta, le vorrei chiedere questo in conclusione. Ma lei è mai stato al Billionaire? No, mai. Ha sentito che chiude. Qua abbiamo ospitato anche Flavio Briatore in questa trasmissione la settimana scorsa a dire siamo un'impresa che chiude, tutti che mi danno addosso. Lei è un'impresa che chiude, però è anche il Billionaire. Lei che ne pensa? Ma che forse non è quello il modello di sviluppo che noi vorremmo per la Sardegna. Alla fin fine... dovremmo essere tutti ricchi, belli, felici in Sardegna se quel tipo di consumo e uso del territorio e di sviluppo avesse portato ricchezze per tutti, invece non è così. Non è così, però Briatore dice io ho portato anche molti, ci ha dato dei dati, ho dato tanti soldi come tasse pagate, sviluppo, affitti di case per la Sardegna, cioè è un'impresa che chiude e tutti mi danno del cafone, del maleducato, del meno male che te ne vai. Che forse una dose di cafonaggine, questo sì, dopodiché che un'impresa chiuda non si discute neanche sul tipo di impresa, nel senso che è sempre un problema che si perdono posti di lavoro e imprese in Sardegna, quindi da questo punto di vista non ho dei pregiudizi, dei preconcetti. Però non è neanche una battaglia di principio, insomma. Cioè, non farebbe una battaglia di principio per difendere il Billionaire. Questo non è il sistema di sviluppo, il modello di sviluppo che le piace di più per la Sardegna. Ecco. Ma non è un principio. Va bene, la ringrazio, sindaco, per essere stato con noi. Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, di SEL, di Sinistra Ecologia e Libertà, che domani c'è il Gay Pride e ci ha spiegato l'unione di fatto, il registro delle unioni di fatto a Cagliari e altro sulla politica italiana. A proposito di politica italiana, voi avete capito cos'è sta storia del Senato federale? Io sinceramente leggo i titoli e faccio fatica a capirlo. Faccio fatica, mi ci impegno, adesso cercheremo di spiegare qualcosa tra poco. Ho capito che stanno litigando i partiti su qualcosa, anche qui francamente ho capito poco. Sicuramente ho capito che nel nuovo Senato federale vorranno eliminare i senatori eletti all'estero. Questo nell'ipotesi di riforma, e vorranno eliminare anche, mi pare di avere capito, i senatori a vita. Ci sono tanti titoli sui giornali sul tema Senato federale, cerchiamo di capire qualcosa. Certo si capisce che i partiti stanno litigando su questo, di certo si capisce anche che in questo Senato federale approvato si vorrà ridurre dagli attuali 315 senatori a 250, ma ci sarebbero anche 21 rappresentanti di regione e province autonome, quindi in realtà si arriva a 271, non un grande taglio. Si capisce anche e si è saputo che il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, il senatore Carlo Vizzini, che saluto, buongiorno senatore. Senatore Vizzini. Eccoci qua, lei che è il relatore di questa legge, un po', posso dire, in maniera arrabbiata, ha detto basta, mollo tutto, trovatevi pure un altro relatore di questa legge? Beh, non con la rabbia, con l'amarezza. Con l'amarezza. E perché? Ci aiuta a capire qual è il punto? L'ha spiegato benissimo il Presidente della Repubblica con la sua nota di ieri. Praticamente io ho avuto affidato un compito da Presidente della Commissione di fare anche il relatore di una riforma della Costituzione che era stata concordata tra il Partito Democratico, il Popolo delle Libertà e il terzo polo, diciamo, sì, che fa capo all'onorevole Casini. I maggiori partiti, diciamo, grande asse parlamentare. Ecco. Bene, un asse parlamentare che ha una proiezione d'aula dei 2/3. Ricordo che i 2/3 sono il numero necessario per le riforme per entrare in vigore subito una norma della Costituzione senza attendere un referendum. E ricordo anche che siamo alla fine di una legislatura, per cui una maggioranza diversa che deve andare al referendum andrebbe al referendum dopo le elezioni del prossimo anno e dunque la riforma entrerebbe in vigore nel 2018. Che cosa succede durante questo percorso? Che il testo che viene concordato e che io di cui faccio il relatore comincia a marciare e ottiene tutti i voti che deve ottenere con la maggioranza dei gruppi che lo hanno presentato. La stessa maggioranza respinge in commissione gli emendamenti della Lega, quindi il PDL respinge in commissione gli emendamenti della Lega sul Senato federale. E poi in aula invece succede... Adagio, la storia è un poco più complessa. Quando siamo verso la fine della discussione viene annunciata una conferenza stampa del Popolo delle Libertà, il quale in una conferenza stampa e non con un emendamento con degli emendamenti alla Commissione lancia la propria proposta, sganciandosi da quella precedente, di fare anche l'elezione diretta del Presidente della Repubblica che diventerebbe anche capo dell'esecutivo, una sorta di semipresidenzialismo alla francese. Prendiamo atto che questa cosa avviene in una conferenza stampa, questi emendamenti in commissione non arrivano mai, arrivano in aula ormai non è neanche malcelato, è proprio alla luce del sole, nasce un patto di vecchia alleanza PDL. Tra la Lega e il PDL, per cui la Lega si impegna a votare per il semipresidenzialismo se il PDL vota si impegna il a votare federale. Per il Senato. Vabbè, ma questo è tutto lungo iter procedurale, ma il punto è perché lei se n'è andato? Perché è stato stravolto il testo? Perché? Intanto perché questa cosa non è prevista nel mandato che io ho ricevuto come relatore, in secondo luogo perché credo di essere una persona che le cose quando le fa con serietà, non mi presto a un gioco che di fatto ottiene un solo risultato, arroccare le riforme per non farle, poiché la Lega e il PDL hanno una risicata maggioranza che è andata nei voti da 4 a 11 voti, nelle votazioni che abbiamo fatto su questa materia al Senato, ma che probabilmente alla Camera non hanno. Sì. Però ecco, forse il presidente Berlusconi sarebbe ancora presidente del Consiglio. Una cosa l'ho capita, mi sembra di averla capita, e mi faccia salutare anche la senatrice Mirella Giai. Buongiorno, senatrice. Buongiorno. Oggi è una bella giornata, diciamo. Perché? Abbiamo vinto ieri sera e così dobbiamo sentirci anche un po' più. Ma certo. Però senatrice, una cosa che me l'hanno insegnato i miei zii, i miei nonni. Una cosa l'ho capita, senatrice, mi scusi, che nel Senato prossimo, se passano queste riforme, i senatori eletti all'estero verranno cancellati. Così. Sì. Lei è una delle senatrici elette. Dove è stata eletta lei? Io sono stata eletta nel collegio dell'America Latina, dove ci sono 3 deputati, 2 senatori. Che ne pensa di questa? Che molti italiani dicono, ma che ne sanno, con tutto il rispetto, le persone che vivono in America Latina, eccetera, che vengono elette? Molti italiani vorrebbero cancellarli, questi senatori eletti all'estero, anche onorevoli. Diciamo così che noi italiani, perché io sono qui rappresentando l'Italia e anche gli italiani all'estero, noi la nostra storia ce la siamo dimenticata, però non dobbiamo dimenticarcela perché abbiamo quasi 4.500.000 italiani nei 4 continenti, fra i quali noi abbiamo lavorato e dei quali il commercio va e viene giornalmente e non ci dimentichiamo che oggi il 60% dei giovani dai 18 ai 24 anni stanno prendendo le vie delle migrazioni. Ma questo sì, senatrice. Nella mia seconda circoscrizione, mi permetta, ci sono i giornali che dicono giovani italiani vengono a trovare lavoro qui e ben vengono e noi li aiuteremo. Però non dobbiamo essere così tanto sprovveduti, perché questo è un gioco, è un gioco di furbizia. Però perché senatrice, non era questo motivo, però era ridurre i parlamentari, cioè, e non andare ecco, a toccare si voleva ridurre. L'articolo 57, però mi scusi, come l'ha detto il presidente Vizzini. Le chiedo questo, senatrice. Che vi do un saluto oggi, buona giornata. Le chiedo questo, senatrice. Tutti dobbiamo rispettare quanti milioni agli italiani che lei ha citato, certamente, che sono all'estero, certo, ma perché per rispettarli ci vogliono dei loro rappresentanti in Parlamento? È questa la domanda che si pongono molti. Sicuro, perché noi in questo modo abbiamo non solamente fatto grande l'Italia che sta qui in Italia, ma abbiamo fatto l'Italia che è fuori dell'Italia e abbiamo anche noi il nostro diritto che ci aspetta da tanti anni di essere rappresentati, e specialmente nel punto nel della Camera e del Senato. Cioè, quindi lei dice è legittimo che gli italiani all'estero siano rappresentati con dei loro rappresentanti che fanno i loro interessi all'interno del Parlamento italiano? Fanno. Io sono qui rappresentando l'Italia. Sì, certo. E anche gli italiani all'estero. E beh, chiaro. Ma cioè, voglio dire, è questo il metodo, cioè, è questo lo strumento per rappresentare. Ma questa è la democrazia. Se noi vogliamo parlare che dobbiamo toccare gli articoli 57 della Costituzione, allora dobbiamo anche parlare che stiamo ritornando indietro a quello che è la libertà e la democrazia. Democrazia e siamo anche noi che viviamo lì. Io rappresento un movimento associativo degli italiani all'estero, di cui il mio presidente è l'onorevole Riccardo Merlo, del quale stiamo in tutto il mondo facendo il nostro lavoro senza nessun interesse che quello che è la nostra italianità, che non vogliamo perdere le nostre radici e non vogliamo essere abbandonati. Ma questo, per carità, ma sono tutti discorsi. No, ma ecco, esatto, sono tutti discorsi assolutamente da sottoscrivere sull'italianità, eccetera. Però il passaggio finale, quello del e per questo dobbiamo essere rappresentati in Parlamento, è questo che alcuni italiani, o molti, non lo so, o tanti contestano. Presidente Vizzini, uscendo un attimo dalle beghe, diciamo, lei che ne pensa della questione senatori all'estero? Anche i senatori a vita verrebbero, credo, tolti. In linea di principio sono senatori a vita perché per ringraziando Dio in questo momento stanno bene. E quindi nessuno si può permettere di eliminarli. Voglio dire che ci sono delle cose che valgono per il futuro, diciamo, al di là di tutto. In ogni paese che ha avuto grandi funzioni istituzionali viene utilizzato come una riserva della Repubblica. L'ex presidente Clinton e gli ex presidenti degli Stati Uniti vengono inviati in missione in tutte le parti del mondo. Tony Blair svolge ruoli internazionali. Ma il principio dei senatori esteri, per esempio, il principio dei senatori non è giusto, secondo lei? In Costituzione stiamo parlando di 4 senatori, sì. E stiamo parlando di un paese che ha la cultura del rispetto delle minoranze, tant'è che garantisce alle minoranze in Italia posti nel Parlamento che sono superiori alla rappresentanza numerica, penso alla Valle d'Aosta e alla Trento e Bolzano, e non dovrebbe riconoscere quest'altra Italia che vive in tutto il mondo e che porta i propri e che in molti casi porta i propri risparmi. Al punto il punto, ripeto, è questo: riconoscerlo è attraverso una rappresentanza parlamentare, cioè che si faccia di tutto per non perdere questa italianità in giro per il mondo. Ma il punto è se questo sia lo strumento, uno degli strumenti adatti. Allora, stiamo cercando di capire che cos'è questo sia il Senato federale per il quale PDL e Lega hanno votato. C'è con noi il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Carlo Vizzini, che anche era il relatore di questo provvedimento, ma ha detto rimetto il mandato da relatore perché non, così non si fa. E la senatrice Mirella Giai, una dei senatori eletti all'estero, alla quale vorrei chiedere questo. Senatrice, faccio mia una battuta che mi è arrivata via SMS da un ascoltatore. Dice: ma guardi, ma gli italiani manco si sentono rappresentati dal Parlamento, manco gli italiani che stanno in Italia, vi sa che c'è molta retorica, se vuole anche anticasta, figuriamoci gli italiani che sono all'estero se si possono mai sentire rappresentati dai dei senatori o deputati che siedono a Roma. Allora, io se posso rispondere gli direi a questa persona che gli ha mandato questo SM. Dunque, io personalmente e quelli che stanno con me rappresentano gli italiani e gli italiani all'estero, e glielo posso dire con tutta sincerità, con orgoglio, perché questo è quello che mi hanno trasmesso i miei genitori, che hanno sofferto anche l'immigrazione, perché la mia famiglia è una famiglia di ma soprattutto sì. Io occupo qua giornalmente, quando mi tocca, i problemi degli italiani che vivono qua in Italia. Certo, questo, ma la chiamano, lei di dov'è che ha detto l'America? Io sono diciamo dell'America Latina, dove dell'Argentina, esattamente? Dell'Argentina. Di Rosario, dalla seconda circoscrizione. Perfetto. Consolare, dove 100 e le chiedono conto, le chiedono conto, la chiamano e dico: cosa sta facendo per noi qui da Rosario? Vorremmo sapere cosa sta facendo per noi. Bene, prima di tutto per gli italiani che sono venuti, per i giovani che stanno entrando in questo momento, però entro dentro in tutto quello che è la politica italiana. Però io li voglio contestare solamente queste poche parole. Dice: io penso che certamente che la Costituzione può avere dei cambiamenti, però deve avere un spirito che deve essere quello della garanzia, della libertà e della democrazia. E in questo ci entriamo anche noi. Forse facciamo queste domande perché non conosciamo la nostra storia. Giustamente difende con questa tenacia. Sentiamo ascoltatori 800 24 00 24. Giuliano da Cagliari, buongiorno. Giuliano, buongiorno. Dica. Sono in vacanza a Cagliari, ma sentivo la trasmissione, ma sono un residente estero. Cos'è che è? Un residente estero. Dove? In Sri Lanka. In Sri Lanka. In Sri Lanka, quindi una rappresentazione. Sa chi è il suo parlamentare di riferimento, diciamo, eletto? Assolutamente no, perché dal momento in cui ha fatto la legge, alla prima rappresentatività se ne è aggiunta un'altra, che è quella di lasciar votare anche coloro che sono in missione all'estero. Sì. Per cui, per esempio, in Sri Lanka, dove c'è stato lo tsunami e dove abbiamo avuto tutte le organizzazioni no profit di questo mondo, votavano quelli che erano piuttosto che gli stessi funzionari statali che sono residenti in Italia, ma sono in missione all'estero, quindi con stipendio, votano e ma sono questo, la maggioranza assoluta di quelli che votano. Lei si sente rappresentato dallo Sri Lanka? Assolutamente no, nessuno si sente rappresentato. Ma cosa vuol che si senta rappresentato una popolazione che non ha più contatti, che oramai tante persone non hanno più nemmeno la padronanza linguistica di questo. La senatrice Giai dice che bisogna difendere anche questo principio di italianità. Comunque la ringrazio, Giuliano da Cagliari, ma residente in Sri Lanka. Andrea da Roma, buongiorno. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Io volevo intervenire, nel senso che sono stato italiano all'estero per 20 anni, ora sono 3 anni e sono tornato in Italia. Sì. Volevo dire dove che è stato? Se io sono stato prima in Francia, poi in Svizzera e poi negli Stati Uniti. Volevo dire che mi sembra giusto e opportuno che gli italiani all'estero abbiano una rappresentanza in Parlamento, anche solo per una questione, come dire, dei loro interessi in quanto italiani. Così come ce l'hanno, non so, i siciliani piuttosto che i valdostani. Gli italiani all'estero contribuiscono tanto al valore aggiunto del nostro paese per commercio, insomma tutta una serie di cose. Quindi lei dice è giusto che abbiano anche una rappresentanza parlamentare. Quindi lei ha seguito le elezioni, votava? Io ho votato, tra l'altro mi sono anche presentato una volta a Los Angeles, eccetera. Crede fino in fondo anche a questa cosa. Va bene, grazie. Sì. Andrea, l'unica cosa fare una piccola nota è che magari il sistema è un po' scuro, perché non sai mai chi sono, per una volta che ti rappresentano non sai come funziona quando sei là. Anche perché le circoscrizioni sono molto ampie, non è facile fare campagna elettorale per tutto il Sud America. È giusto, ma è tutto molto confuso come funziona. Va bene, grazie Andrea. Presidente Vizzini, vorrei ritornare su questo. Al di là il tema della questione è sul Senato federale, che scenderebbero a 271 dagli attuali 315 senatori più quelli a vita. Riuscirà almeno a ottenere questo? Con questi emendamenti approvati e con quello che è successo in Senato, devo dirle che io ritengo che non se ne farà nulla. Cioè salterà che, tutto, rimarremo così. E noi perdiamo l'unica buona occasione per dimostrare che siamo capaci di tagliare il numero dei parlamentari, che è un impegno assunto coi cittadini, soprattutto al Senato, dove abbiamo già lavorato per tagliare il numero dei consiglieri regionali delle regioni a statuto speciale. Infatti. Daremmo la dimostrazione che siamo bravi a tagliare i seggi degli altri e non i nostri. Ecco, Presidente, allora mi dica questa cosa. Mi dica questa cosa. I forconi, gli italiani, a che indirizzo glieli mandano poi quando lei certificherà e dice non se ne farà nulla? Perché mi scusi. Ma guardi, non... perché dovrebbero mandarli a me? La no, mia no, non dico a lei, cioè secondo lei a che indirizzo dovrebbero spedirli, i forconi o portarli? Guardi, il problema è generale e io le dico che se noi non riusciamo almeno a ridurre il numero dei parlamentari in modo consistente, b, a fare una legge elettorale che crei un rapporto tra l'elettore e l'eletto che oggi non c'è, e ci ad approvare rapidamente al Senato, e su questo c'è il mio impegno personale, la legge già approvata dalla Camera che crea la trasparenza nella gestione dei fondi dei partiti. La campagna elettorale, se non facciamo almeno queste tre cose, la potremo fare per corrispondenza, perché nelle piazze non ci lasceranno andare. Infatti, è questo un po' il timore è questo. Io vi ringrazio, il Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato Carlo Vizzini e la senatrice Mirella Giai, eletta nella circoscrizione Sud America, diciamo America Latina. Grazie per essere stati con noi. Saluto Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro Carmelo Lauricella in regia. È quasi weekend, è venerdì. Seguiteci su Twitter @24mattino @AlinoMilan, che sono io. A lunedì. Un parlamentare che partecipa a tutte le sedute di commissione, apre un ufficio, riceve gente, mi creda, ha tante di quelle spese per cui lo stipendio che riceve dal Parlamento non gli avanza nulla. Tutti i parlamentari stanno 13 giorni a Roma, io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco ad prendere 300 euro. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna, noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire.